30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Mentre la Repubblica di Cipro ha iniziato l'esplorazione di un giacimento di gas sottomarino denominato Afrodite nelle sue acque territoriali, il premier turco Recep Erdogan ha replicato firmando un accordo con Cipro Nord per la ricerca congiunta di idrocarburi nel tratto di mare tra la costa meridionale della Turchia e la costa settentrionale dell'isola. Una vera e propria rappresaglia simbolica che alimenta il clima di tensione riesploso nel Mediterraneo sudorientale nelle ultime settimane e che si innesta nella vicenda della crisi diplomatica turco-israeliana. Ankara si è detta pronta all'invio di navi da guerra e aerei, nonostante gli inviti alla calma e al negoziato da parte dell'Unione Europea. Ancora buonasera, benvenuti all'appuntamento con 30 minuti in cronaca. Questa sera dunque siamo a Istanbul, almeno idealmente, tra l'Europa e l'Asia, in uno dei luoghi dove la storia è politica, dove la cultura è anche quella millenaria di un mondo che ora torna a farsi sentire in maniera prepotente. Cosa succede nella Turchia del premier Erdogan? Quali ambizioni coltiva oggi questo grande paese in un Mediterraneo in fermento? Bene, la nostra guida nell'attualità turca è Marta Ottaviani. Marta, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Marta Ottaviani è corrispondente a Istanbul dell'agenzia stampa TM News, collaboratrice della Stampa e di Avvenire. Marta Ottaviani è autrice, tra l'altro, di Cose da Turchi e poi di Mille e una Turchia, che ha pubblicato lo scorso anno. Ecco, piccolo promemoria, Marta, quanti anni in Turchia? Sei. Ecco, non si chiedono gli anni a una signora, ma direi che a una collega si può chiedere quanti anni appunto trascorsi in un paese che per tanto tempo è stato in qualche modo un gigante sonnolento, ma che negli ultimi tempi è quanto mai attivo. Allora, molti fronti che cerchiamo di percorrere. Partiamo da Afrodite. Sembra quasi appunto una citazione dall'Iliade, invece è una questione di gas, ma che si estende in maniera molto più ampia. Che cosa significa questo per la Turchia oggi? Ma dunque, anzitutto significa un grosso nodo che viene al pettine, il cosiddetto nodo Cipro, l'isola spaccata in due dal 1974 in seguito all'intervento armato della Turchia che fu effettuato ufficialmente per evitare l'annessione dell'isola alla Grecia. Cipro è sempre stato considerato dall'Unione Europea e dalla comunità internazionale poco più che un problema regionale, invece adesso rischia di diventare la zona più calda del Mediterraneo, perché noi sappiamo l'isola è spaccata in due, la parte greca, membro dell'Unione Europea, riconosciuta da tutta la comunità internazionale, la parte turca riconosciuta solo da Ankara, che da anni porta avanti una battaglia per farle avere appunto uno status di nazione riconosciuta a tutti gli effetti. Adesso a complicare la situazione ci sono anche queste riserve di petrolio e gas naturale che nessuno sa a quanto ammontino, ma che vengono stimate da alcuni esperti per miliardi di dollari, un boccone che Ankara non si vuole lasciare sfuggire e sta usando proprio la diatriba internazionale sullo status della Repubblica Turca di Cipro Nord per allungare, diciamo, la sua influenza anche su quelle acque territoriali. Ecco, naturalmente a questo aggiungiamo anche il fatto che, essendo Cipro un membro dal 2004 dell'Unione Europea e poiché il sistema della turnazione della presidenza prevede che appunto tutte le capitali abbiano il loro semestre, che siano grandi o piccole non fa nessuna differenza, nel secondo semestre 2012 Cipro sarà la presidente di turno dell'Unione Europea, cosa che come dire, è un meccanismo assolutamente automatico, ma che è bastato per portare a minacciare da parte turca addirittura un blocco delle relazioni con l'Europa, che sembra veramente forte come dichiarazione. Sì, eppure è una dichiarazione che hanno ripetuto anche in queste ore, addirittura il vice premier Bülent Arınç ha detto: guardate che noi sulla questione Cipro non stiamo bluffando, non metteteci alla prova. È una Turchia che sembra sempre più intenzionata ad alzare la voce, anche forte del ruolo comunque non solo di modello ma di vera e propria guida che sta assumendo in Medio Oriente nel mondo musulmano. Il primo avvertimento è stato a Barack Obama nel corso del colloquio con il premier fra il premier turco Recep Tayyip Erdogan e il presidente americano Barack Obama. Obama ha fatto quanto di meglio potesse per non toccare i nervi più scoperti, ma ricordiamo che in questi giorni Erdogan è stato a New York per perorare la causa del riconoscimento dello Stato palestinese. Ecco, è stato a New York ed è stato veramente una delle figure centrali. Ha parlato, come capita ai grandi leader, di tutti i temi, ha dato, se vogliamo, sponda agli americani rispetto alla Siria, appunto, annunciando controlli più serrati, ma nello stesso tempo è ritornato fortemente ad affermare, diciamo, l'orgoglio turco? Assolutamente, non solo l'orgoglio ma anche le ambizioni che la Turchia nutre sullo scacchiere internazionale e alle quali non ha alcuna intenzione di rinunciare. Ecco, come mai, e poi naturalmente faremo un percorso con te in questa primavera araba in cui la Turchia ha un ruolo così importante, ma vorrei prima chiederti in che modo Cipro si salda alla questione israeliana e alla crisi recente dei rapporti tra i due paesi? Cipro si salda alla questione israeliana perché Israele sta compiendo questa attività di sondaggio dei fondali del Mediterraneo insieme con Cipro. Tra l'altro Israele ha un contenzioso aperto anche con Libano per quanto riguarda un altro giacimento, ma non mettiamo troppa carne sul fuoco. Insomma, una zona che diventa particolarmente interessante. Noi abbiamo raccontato come Radio 24 anche nel corso degli ultimi due anni quante attività, quante prospezioni, quante piattaforme siano state portate, attivate in fase esplorativa. Ma torniamo in Turchia. Marta Ottaviani, è cambiato qualcosa all'interno che in qualche modo possa spiegare questo nuovo atteggiamento da parte di Erdogan e della Turchia? Sì, decisamente. Per prima cosa, ed è probabilmente il dato più lampante agli occhi di tutti, la Turchia sta sperimentando un periodo di crescita economica che è senza precedenti e che va anche in controtendenza invece a quella che è la congiuntura internazionale. È una Turchia che ha una stabilità interna invidiabile. Ricordiamo, il premier turco Recep Tayyip Erdogan è stato riconfermato, il suo partito islamico moderato è stato riconfermato alle elezioni dello scorso giugno con il 49,95% dei consensi, praticamente un plebiscito. È una Turchia che ha sempre più credito e viene sempre più vista come modello e come guida da una parte del mondo alla quale, quindi il mondo musulmano, il Medio Oriente, alla quale probabilmente prima mancava un punto di riferimento così forte, e lo fa in grazia del suo status speciale di stato musulmano ma laico, quindi dove la maggioranza, la stragrande maggioranza delle persone sono di fede islamica, ma ha una costituzione laica. È una Turchia che ha molti assi nella manica ed è una Turchia che ha anche una posizione particolarmente strategica per quello che riguarda le rotte del gas. L'altro giorno il ministro per l'Europa Pesce, rilasciando un'intervista a un noto quotidiano nazionale, ha detto: sapete perché la Turchia è così importante? Perché è in mezzo a tutto, e in effetti basta guardare una carta geografica per capire come Ankara stia cercando di sfruttare al meglio questa sua posizione strategica. È una Turchia poi che, ricordiamolo, negli ultimi due anni ha sperimentato un'esuberanza diplomatica senza precedenti, cercando di giocare su più tavoli, a partire da quello siriano ad arrivare alla Libia, prima ancora quando i rapporti con Israele non erano ancora alla frattura, stava addirittura cercando di mediare tra Tel Aviv e Damasco per la questione delle alture del Golan. Ed è sempre, in ultimo, riagganciandomi anche a quello che dicevo prima, uno Stato molto presente, sempre più presente per le future vie dell'energia. L'energia, certo, un ruolo centrale. Marta Ottaviani ci ha in qualche modo sollecitato a riguardare le carte geografiche, gli ingressi che la Turchia ha e che quindi portano verso il Mar Caspio, verso i grandi gasdotti oleodotti russi del Kazakistan, un ruolo centrale e non a caso centrale anche nelle alleanze. La Turchia di oggi è quello che è anche grazie a un solido rapporto costruito negli anni con gli Stati Uniti. 30 minuti in cronaca. La Turchia dunque pretende nuovamente un ruolo che naturalmente la storia le assegna, le ha assegnato per molti secoli, in un periodo che non posso, come dire, dimenticare, come certe voci proprio della storia del Novecento stiano riemergendo. Mi riferisco, in Ungheria c'è una grande protesta, addirittura movimenti politici che chiedono la cancellazione del Trianon, che per l'attualità forse non vuol dire nulla, ma nel 1920 è il trattato che di fatto ha smembrato la Grande Ungheria. In Turchia dunque, negli stessi anni, mentre l'impero ottomano si frammentava e diventava la Turchia di oggi, cambiava il mondo e certo la Turchia entrava in una fase che sembrava di declino. Oggi dunque, come Marta Ottaviani ci ha raccontato questa sera da Istanbul, su tutti i fronti questo grande paese vuole tornare quantomeno ad esprimersi con una voce chiara. Grandi ambizioni. Ripartiamo per cortesia dagli Stati Uniti. Erdogan ha più volte espresso, anche solo in questa settimana, delle posizioni forti, ma quanto è legato il successo della Turchia alla relazione con Washington? La Turchia è uno degli alleati storici di Washington ormai da alcuni decenni, ha un rapporto a doppio filo con Washington anche per quanto riguarda le forniture attinenti all'industria di difesa, dove gli americani detengono se non il monopolio ma una percentuale molto rilevante insieme a quella che deteneva un tempo Israele. Washington è sempre stato in qualche modo il garante dello status speciale della Turchia nel Mediterraneo, ponte tra Oriente e Occidente. Washington è proprio quella che in questo momento si preoccupa maggiormente di questa esuberanza diplomatica della Turchia. Una delle domande che si pongono più spesso gli analisti sia se questa esuberanza diplomatica sia stata in qualche modo concordata con gli Stati Uniti o se la Turchia, come sembrerebbe, abbia sempre più voglia di smarcarsi in qualche modo dagli Stati Uniti, non per entrare in contrasto ma per giocare il suo ruolo di player medio orientale in totale autonomia. Ecco Marta, l'opinione pubblica, perché appunto vivere per anni in Turchia ha questo vantaggio, qual è il rapporto dell'opinione pubblica? Che cosa dice la gente per strada rispetto a questo rapporto? Cioè è vissuto come una forma di sudditanza oppure no? Assolutamente sì, c'è sempre stato un profondo disagio dell'opinione pubblica nei confronti degli Stati Uniti, che sono sempre stati indirettamente accusati di voler ridurre la Turchia quasi a un protettorato. Soprattutto negli anni 60 e 70 erano molti gli slogan che venivano inneggiati contro l'imperialismo americano. Devo dire che in questi giorni, in questi mesi, si respira anche un grandissimo entusiasmo per le strade della Turchia, per questo nuovo ruolo ritrovato, come se la Turchia fosse andata a riprendersi qualcosa, una posizione, un ruolo che la storia non solo ma anche la geografia le avevano assegnato. Quindi direi che in questo momento il popolo turco, in grande maggioranza, è quasi galvanizzato da questa nuova importanza che sta assumendo il paese a livello internazionale. Erdogan è un uomo abile sicuramente, alcuni anni fa era una sorta di oggetto misterioso, il partito islamista e così via, ha saputo gestire direi pienamente questa novità politica. Credi che sia un uomo capace di avventure o di spingere la corda troppo in avanti o di tenderla troppo? Il problema è proprio questo, il premier Recep Tayyip Erdogan è un uomo di fiuto, di grandissimo fiuto e intelligenza politica. Il problema è, questo se lo chiedono gli analisti più critici nei confronti della sua politica, dove sia disposto ad arrivare, se tutto quello che stia facendo, lo stia facendo per raggiungere poi un compromesso che sia buono per la Turchia, e questa è diciamo l'ipotesi più ottimista, o se invece si è in cerca di fratture più o meno definitive, cosa che però sulla quale concordano solo una minoranza di analisti. Quello che ha detto proprio venerdì notte, quello che per noi era venerdì notte a New York, può essere interessante, nel senso che all'ultimo, dopo aver attaccato Cipro, dopo aver attaccato Israele, Erdogan ha buttato lì che la Turchia comunque potrebbe essere interessata a un compromesso sul gas. Quindi insomma sembra quasi che il premier Erdogan stia anche astutamente tirando la corda per poi raggiungere raggiungere un accordo che possa essere giudicato favorevole per la Turchia. Un uomo dunque sicuramente molto abile, che in queste settimane è stato anche al centro di alcuni eventi che possiamo dire senz'altro di grande carica simbolica. In particolare mi riferisco al bagno di folla di Bengasi. Un secolo dopo, tra l'altro, come dire, proprio tra qualche settimana cade il centenario della guerra italo-turca per Tripolitania e Cirenaica. Bene, a Bengasi, subito dopo il presidente Sarkozy e Cameron, c'era il premier turco. Sì, tra le altre cose c'è stato anche un brusco cambiamento del programma, per il quale la Turchia mi risulta si sia anche abbastanza infastidita, perché Erdogan avrebbe dovuto essere il primo capo di governo a planare a Tripoli dopo, insomma, l'inizio dell'operazione NATO. Sarkozy e Cameron gli hanno teso, per così dire, un tranello e invece appunto hanno fatto in modo di arrivare prima di lui, e il premier è stato costretto a spostare, a riorganizzare tutta l'agenda del suo viaggio e andare a Bengasi in qualche modo per non arrivare secondo. Ma di fatto il messaggio per le masse arabe, come si dicevano, definivano una volta, è forte. Il messaggio è fortissimo e il premier Erdogan ha avuto un successo personale in questi 4 giorni di viaggio diplomatico nei paesi della primavera araba, assolutamente senza precedenti. In Egitto, pensate, è arrivato con alcune ore di ritardo rispetto alla tabella di marcia, migliaia di persone non si sono mosse dall'aeroporto finché non l'hanno visto scendere e non l'hanno potuto acclamare. Lo acclamavano appunto come un difensore dell'Islam, ma anche come un vero e proprio leader politico che dovrebbe essere preso come modello in tutti i paesi musulmani. Voglio anche ricordare che Erdogan ha fatto alcuni discorsi di grandissima portata politica, perché sia in Egitto, sia in Tunisia, sia in Libia ha portato la Turchia come esempio, dicendo: io sono una persona musulmana, sono un musulmano osservante, ma guido uno Stato laico. Quindi, insomma, rimarcare questa grandissima sintesi tra laicismo e religione che poi rende ancora oggi la Turchia un unico nel mondo islamico. L'affermazione della Turchia deve fare paura all'Europa. Voglio dire, noi reagiamo anche a un riflesso che è storico, mamma li turchi. La crescita di un paese come questo, che ha dato comunque grandi prove anche di capacità diplomatiche, oltre che evidentemente culturali, insomma, deve necessariamente fare paura al resto del Mediterraneo? No, io direi assolutamente no, non deve fare paura, perché è un paese che può dare tanto. È un paese con cui io credo bisogna però riavviare un dialogo completamente nuovo. L'esempio di Cipro è lampante: se l'Unione Europea avesse risolto il problema dell'isola prima che la parte greca di Cipro entrasse in Europa, probabilmente oggi la questione sarebbe molto meno difficile da dirimere. Direi proprio di concludere su questi temi. L'Unione Europea, un rapporto travagliato. Abbiamo vissuto fasi in cui la Turchia sembrava davvero sulla porta di casa, poi allontanamenti. Che cosa lamenta la parte turca, quindi l'opinione pubblica turca, rispetto all'atteggiamento dell'Unione Europea? Beh, l'opinione pubblica turca è molto arrabbiata con l'Unione Europea, gli rimprovera un atteggiamento scostante, rimprovera ad alcuni paesi, soprattutto alla Francia, atteggiamenti ai limiti del razzista e dell'islamofobo, al presidente Sarkozy di non voler la Turchia in Europa per proteggere i propri interessi nazionali. È un paese che, permettetemi di dirlo, ha sofferto molto anche per come sono andati i negoziati. È un paese che in questo momento, anche appunto in grazia della sua condizione economica particolarmente privilegiata, si reputa parte forte nella dialettica tra Turchia ed Unione Europea. L'immediata conseguenza di questo è che a volte si assiste proprio a un atteggiamento di, come dire, rivalsa nei confronti dell'Unione Europea, della serie: adesso i più forti siamo noi a decidere in questo momento che non entriamo. Questo a livello di popolazione. Il governo Erdogan continua ufficialmente a mantenere aperti i negoziati, anche se sappiamo su 35 capitoli negoziali fino a questo momento ne sono stati aperti solo 13 e 18 sono bloccati dal nodo Cipro, quindi è tutta in salita. Una strada molto lunga a cui oggi forse la Turchia per la prima volta appare meno interessata che in passato. non solo meno interessata che in passato, ma anche nella sua ottica in tutte le condizioni per poter fare bene anche senza l'Europa. E già, e questa è forse è anche la novità di questi tempi. Io ringrazio Marta Ottaviani di essere stato con noi. Ricordo che appunto Marta Ottaviani è autrice tra l'altro di Cose da Turchi e poi Mille e una Turchia, che sono due lavori che sintetizzano anche con degli aspetti curiosi. Questa sera abbiamo parlato di Art News, ma poi ci sono tutta una serie di elementi di costume, di atteggiamento che riguardano la televisione e le abitudini dei turchi, così vicini, così lontani per tanti versi, che sono appunto il prodotto di anni vissuti in questo grande paese. Noi siamo in conclusione, Carmelo Lauricella in regia, non mi resta che ricordarvi radio24.it per sentire e risentire questa e tutte le nostre trasmissioni. Buon fine settimana a tutti.